GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Clima impazzito e i costi dell'energia hanno fatto lievitare i costi dei prodotti dell'ortofrutta. Anche quelli di stagione costano ormai il doppio rispetto allo scorso anno. Gli operai dell'ABS durante una manifestazione scoprono una telecamera nascosta. I sindacati proclamano lo stato di agitazione. Episodio gravissimo, dicono, finalizzato al controllo dei lavoratori. Prestazioni sanitarie anche di sabato riducono le liste di attesa nel Pordenonese, ma per il Tribunale dei diritti del malato restano grosse criticità da risolvere. Trovate lesioni sul corpo di Liliana Resinovic non sarebbero compatibili con una caduta a terra perché i suoi vestiti erano puliti. L'avvocato Gentile si sta delineando un quadro sempre meno compatibile col suicidio. L'Istat presenta la settima edizione del censimento permanente che ha preso il via all'inizio di questo mese. In Friuli Venezia Giulia coinvolgerà 70 comuni e 31.600 famiglie. Commessa milionaria per la ICOP di Basigliano, si è aggiudicata 3 nuovi progetti di microtunnel nelle province di Catania, Rimini e Macerata. L'IRSE organizza a Pordenone un incontro con la divulgatrice Violetta Benini sulla sessualità rivolto in particolare agli studenti, ma alcuni genitori negano la partecipazione delle classi all'evento. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Andrei Marussi. Gebbieta, cavolfiore, finocchi, cicoria, tutti ortaggi di stagione che si fa fatica a trovare e se li si trova costano quasi il doppio rispetto a un anno fa. Clima avverso e costo della produzione, in particolare energie fertilizzanti, fanno lievitare i prezzi sia all'ingrosso che al dettaglio. Il punto al mercato ortofrutticolo di Udine. Le gelate non ci sono state, ma il caldo afosissimo della scorsa estate, quello sì, lo ricordiamo tutti. Le piante hanno sofferto e se producono frutta e verdura piccola, in altri casi non producono affatto, interi raccolti, saltati, prezzi alle stelle. Siamo al mercato ortofrutticolo di Udine, il più grande della regione, con Giuseppe Pavan, vicepresidente della Udine Mercati, rientrato poche ore fa da Madrid, dove si è tenuta la seconda fiera europea più importante di settore. Prezzi molto alti, soprattutto per il meteo. Assolutamente sì, dovuto al fatto di questi sbalzi climatici che hanno influito poi sul risultato finale dei prodotti. Ci faccia degli esempi. Ma fino a 15 giorni fa avevamo dei prodotti che arrivavano dal meridione, che solitamente avevano dei prezzi adeguati, dove avevamo dei prezzi, non so, un articolo a caso, i cavoli, eravamo a 3,50, 3,80 all'ingrosso, cose mai accadute. I finocchi eravamo a 4 euro nei mercati all'ingrosso. Oggi come oggi si sono un po' stabilizzati, però sono prezzi ancora alti. Non solo per il clima. Assolutamente no. Noi dobbiamo valutare che tutta la produzione, specialmente oggi, degli ortaggi che arriva dal sud, ha avuto dei danni non solo perché adesso tanta acqua, ma hanno avuto un'estate torrida e quindi è andata a incidere su tutto quello che era il settore del vivaistico, delle piantine e quant'altro, e hanno saltato un mese, quindi meno produzione, un'incidenza maggiore del prezzo, per poi non parlare dei costi di produzione, fertilizzanti, trasporto e di tutta la filiera che sono aumentati assolutamente in maniera molto importante. Solo in Italia o in Europa? No, anche in Europa casi uguali ci sono, difatti abbiamo fatto questa riunione molto importante con tutti, diciamo, i produttori, ma non solo i produttori, anche i distributori europei, e hanno messo sul tavolo le stesse problematiche che abbiamo noi in Italia. Udine, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Una lieve frattura alla lamina della seconda vertebra toracica sarebbe stata riscontrata durante il nuovo esame autoptico sui resti di Liliana Resinovic. Non sarebbe invece stata rilevata la possibile antica frattura al naso che veniva riportata nella prima relazione medico-legale. La lesione alla vertebra andrebbe a sommarsi agli altri segni sul corpo della 63enne, il cui cadavere fu ritrovato il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell'ex ospedale psichiatrico di Trieste. La prima relazione, firmata da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, riferiva che la palpebra destra di Resinovic era apparentemente tumefatta e venivano annotate tracce ematiche alla narice destra. Inoltre, la lingua presenta una apprezzabile piccola infiltrazione emorragica muscolare anteriore, mentre sulla testa si nota infiltrazione emorragica a livello di muscolo temporale sinistro e la presenza di piccole petecchie emorragiche. Il collegio peritale nominato dalla procura per stendere una nuova relazione medico-legale è al lavoro per provare a dare una spiegazione alle lesioni. In caso di cadute i vestiti della donna si sarebbero sporcati viste le piogge del periodo mentre erano intonsi. Dagli esami verrebbe inoltre confermato che la morte della donna sarebbe avvenuta il 14 dicembre del 2021, cioè il giorno della scomparsa da casa. Si sta piano piano delineando, ha dichiarato Nicodemo Gentile, legale di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, un quadro sempre più obiettivo di una ricostruzione dei fatti assolutamente incompatibile con un suicidio. Gentile si augura che la procura, gli investigatori, con un atto di grande umiltà, segno di forza e non di debolezza, alla luce di quello che si sta componendo e che verrà messo nero su bianco dai consulenti nominati dalla stessa procura, rileggano i fatti in maniera diversa. Stato di agitazione permanente, l'ABS, a proclamarlo le segreterie provinciali dei sindacati metalmeccanici di Udine e le RSU, in seguito al ritrovamento questa mattina di una telecamera nascosta durante una normale operazione di manutenzione. Funzionante e dotato di SIM, il dispositivo si trovava all'interno di una scatola. Un episodio gravissimo con il rischio di un reale controllo dei lavoratori in barba a tutte le normative vigenti, si legge nel volantino firmato dai segretari territoriali di CGIL, CISL e UIL. Immediato anche l'esposto alla procura di Udine dove i sindacalisti si sono recati già in mattinata. Quanto alle possibili forme di lotta e di protesta verranno decise dopo il confronto con i lavoratori che saranno convocati in assemblea nei prossimi giorni. L'azienda di Carniacco, comune di Pozzuolo del Friuli, è parte del gruppo Danieli di Butrio, colosso dell'impiantistica siderurgica mondiale e della produzione di acciai speciali, concentrata proprio in ABS. Occupa 1.300 dipendenti e sta attraversando un momento di contrazione produttiva coperto dalla cassa integrazione straordinaria attivata fino a gennaio 2025 per 950 persone. Prima riduzione di personale nella filiera degli appalti che ruota intorno alla Flex di Trieste. Lo rendono noto FIOM e Fil CGL, precisando che l'impresa Work Service, che impegnava 14 dipendenti nello stabilimento triestino, ha visto cessare il proprio contratto lo scorso 30 settembre senza subentri al momento di altre imprese appaltatrici. La notizia arriva a pochi giorni dalla conferma da parte dei vertici della Flex della conclusione a fine 2024 del contratto con Nokia. FIOM e Fil CGL inoltre sottolineano che i prospetti di diversificazione per l'acquisizione di nuovi clienti non garantiscono in alcun modo l'impiego di almeno 200 dei 348 lavoratori diretti attualmente in forza ed espongono al rischio occupazionale ulteriori lavoratori presenti nella filiera degli appalti, come al solito esposti prima degli altri dal punto di vista del rischio. Lo rendono noto appunto i sindacati con i segretari provinciali Marco Relli e Stefano Mauro. L'apertura delle agende anche il sabato per ridurre i tempi d'attesa per le prestazioni sanitarie avviata da un mese dall'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale pare funzionare. Stando ai dati diffusi dalla dirigenza, i miglioramenti si rilevano in tutte le classi di priorità. Per l'Associazione Diritti del Malato di Udine restano però ancora grosse criticità da risolvere. Il miglioramento più evidente sulle prestazioni di classe B breve da erogare entro 10 giorni, a oltre un mese dall'apertura delle agende anche il sabato nell'azienda sanitaria Friuli Centrale, la quota di quelle erogate entro i tempi, stando ai dati dei CUP diffusi dalla Direzione Generale, a settembre è salita al 72% contro il 44% dello scorso anno, l'obiettivo cui hanno mirato le nuove misure messe in campo dall'azienda per ridurre le liste d'attesa, soprattutto per le prestazioni più urgenti, che dunque stanno dando i primi risultati, altrettanto positivi quelli sulle prestazioni in classe D, differita, che comprende le prestazioni da eseguire entro 30 giorni nel caso delle visite o 60 in quello degli accertamenti diagnostici, lo scorso anno ferme al 50%, a settembre salite al 64%. Meno evidenti risultati sulle prestazioni di classe P programmate, che vanno eseguite entro 120-180 giorni dalla richiesta, sebbene anche in questo caso i tempi si siano ridotti dal 57% del 2023 al 61% di settembre. Complessivamente, se ad agosto risultavano eseguite nei tempi previsti il 55% delle richieste di visite specialistiche e diagnostica per immagini e altri esami, ad oggi la percentuale è salita al 66%. Restano invece ancora criticità in gastroenterologia, dove la domanda supera l'offerta, mentre risultano in netto miglioramento oculistica e cardiologia, rileva la stessa azienda sanitaria. Anna Agrizzi, presidente dell'Associazione Diritti del Malato di Udine, sulla scorta delle ultime segnalazioni raccolte, conferma i ritardi per certi esami in gastroenterologia, ma anche e ancora in oculistica, dermatologia, ortopedia, neurologia e neurochirurgia. Resta poi sconosciuto ai più il percorso di tutela che, in caso di ritardi nei tempi previsti dalla prescrizione, garantisce all'utenza la presa in carico da parte dei CUP per la riprogrammazione dell'appuntamento in tempi brevi in ambito regionale, segnala ancora Agrizzi, che lamenta anche la mancata applicazione del rimborso previsto dalla legge per i pazienti costretti per le liste d'attesa a rivolgersi al privato, e annuncia un prossimo incontro informativo su questi temi aperto a tutti. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina del meteo: il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 21 gradi, Gorizia 19, Udine 18, Pordenone 16,5, Dolmezzo e Tarvisio 13,5, Forni di Sopra 11,5, Piancavallo 11, Sappada 10, Monte Lussari e Monte Zoncolan 7,5, Grado 21,5, Lignano 20,5. Le previsioni dell'ARPA: cielo da nuvoloso a coperto con piogge abbondanti o intense e temporali, specie verso sera. Sulle Prealpi Giulie piogge anche molto intense, sulla costa soffierà vento di scirocco sostenuto con possibile mareggiata tra Lignano e Grado. In serata vento da nord in pianura e in seguito di bora sulla costa. Domani tempo migliore. L'Istituto Nazionale di Statistica ha illustrato questa mattina a Trieste la 7ª edizione del censimento permanente, che ha preso il via all'inizio di questo mese e che coinvolgerà in regione 70 comuni e 31.600 famiglie. 70 comuni, circa 31.600 famiglie del Friuli Venezia Giulia sono coinvolte dal censimento Istat. La fotografia è riferita al 6 ottobre, dal 7 fino al 23 dicembre è possibile rispondere al questionario. I dati ottenuti dal campione daranno una lettura su come la popolazione sta evolvendo e un paragone con gli altri paesi. Esiste l'obbligo di risposta al questionario, che è anonimo. La comunicazione avviene attraverso una lettera personalizzata. La rilevazione dall'Istat fornisce informazioni sugli individui e sulle abitazioni occupate, che andranno ad integrare il sistema dei registri della statistica ufficiale, in particolare il registro della popolazione, il registro dei luoghi e quello del lavoro. Si può rispondere online, oppure dal 12 novembre le famiglie che non hanno compilato il questionario verranno contattate a domicilio dai rilevatori per l'intervista faccia a faccia o per telefono, fissando un appuntamento. Per non andare incontro a truffe è importante ricordare che viene contattato soltanto chi ha ricevuto la lettera personalizzata da parte dell'Istat. Fino al 9 dicembre si può compilare il questionario autonomamente. Dal 10 al 23 dicembre sarà possibile l'intervista a domicilio o presso il centro comunale di rilevazione. Il numero verde Istat 800 188 802 per informazioni è attivo ogni giorno dalle 9 alle 21. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Commessa milionaria per la ICOP di Basigliano, una delle poche aziende specializzate nella costruzione di microtunnel. La ICOP, impresa di Basigliano specializzata in costruzioni e opere speciali di ingegneria, si è aggiudicata 3 nuovi progetti di microtunnel per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro. I lavori infrastrutturali coinvolgono le province di Catania, Rimini e Macerata. In Romagna, ICOP è stata incaricata della realizzazione, in un anno e mezzo, di un collettore fognario per la mitigazione del rischio idraulico. Obiettivo: deviare le piogge a monte del centro cittadino verso un canale, così da ridurre il rischio allagamenti. La galleria sotterranea, di scala ridotta, permette di minimizzare l'impatto dell'opera in un'area ad alta densità abitativa. Più a sud, in zona appenninica, ICOP parteciperà alla costruzione di un lotto del metanodotto Recanati Foligno, che attraversa la provincia di Macerata. Infine, a Catania, ICOP è già impegnata nei lavori fondazionali per la modifica dell'infrastruttura ferroviaria e consentire l'allungamento della pista dell'aeroporto. Qui il microtunnel sarà utilizzato per la posa sotterranea di una condotta fognaria senza interferire con il tracciato ferroviario. Poche le aziende in Italia specializzate in questa tecnologia. La centenaria impresa guidata dalla famiglia Petrucco, fatturata intorno ai 200 milioni nel 2024, è una di queste. Si tratta di una tecnologia nata in Giappone negli anni 80 e sviluppata poi in Germania, un modo meccanizzato di realizzare gallerie di piccolo diametro, fino a 3 metri, con delle frese guidate dall'esterno e capaci di adattarsi a molte condizioni di terreno. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Violetta Benini è molto seguita sui social e ostetrica, consulente sessuale, divulgatrice, autrice di testi. Oggi è la protagonista a Pordenone di un incontro gratuito organizzato dall'IRSE, aperto a tutti, ma rivolto principalmente agli studenti. Ma alcuni genitori che fanno parte dei consigli d'istituto hanno negato la partecipazione delle classi all'evento, ritenendolo non formativo. Partecipi e attenti, curiosi di fare domande su un tema affrontato sempre troppo poco e spesso in modo lacunoso. Sono i circa 250 ragazzi delle scuole superiori di Pordenone che hanno partecipato all'incontro Sex Education Matters, l'educazione sessuale è importante, organizzato dall'Istituto Regionale di Studi Europei nell'ambito della rassegna Affascinati dal Cervello. Sul palco l'ostetrica, consulente sessuale e divulgatrice con gran seguito su Instagram, Violetta Benini. È importante per poter, diciamo, portare un'educazione che non sia solo quella che viene ahimè da internet, ma che possa, diciamo, portare ai ragazzi e anche agli adulti tutta una serie di conoscenze per vivere meglio la loro identità sessuale e la loro anche, diciamo, sessualità fisica. Alla nostra età non tutti hanno molta consapevolezza di queste tematiche e magari vorrebbero anche saperne di più e magari si trovano anche in difficoltà o in imbarazzo magari a chiedere ai propri genitori o ai propri amici. Sicuramente è meglio rapportarsi con una persona che sappia e che sia preparata rispetto a dover scoprire le cose su internet. Un incontro che ha messo al centro la partecipazione, con i ragazzi invitati a porre domande e a rispondere anonimamente con il loro smartphone a questioni sull'educazione sessuale e riproduttiva, sul piacere e sull'educazione ricevuta in materia, a casa e a scuola. Risposte da cui emergono lacune legate a tabù e ignoranza in un paese come l'Italia, che è tra i pochi in Europa a non prevedere l'insegnamento dell'educazione sessuale a scuola, e dove le domande in sospeso sono le stesse a tutte le età. Non penso che un ragazzo mi chiederà qualcosa di diverso o un adulto qualcosa di diverso. Pensando a tutte le cose che racconto nei miei social, gli adulti mi dicevano: se lo avessi saputo prima. Pordenone, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche una professoressa e una studentessa di Trieste hanno partecipato al programma statunitense per lo sport inclusivo che si è svolto a Los Angeles questa mattina. Insieme alla consigliera per gli affari pubblici dell'ambasciata americana hanno incontrato al cinema le scuole superiori di Trieste. Per 600 fortunati studenti delle superiori di Trieste è stata una mattinata lontana dai banchi e vicina al cuore dello sport, quello sano che aiuta nella crescita personale e di squadra. Hanno assistito alla proiezione del film Chi segna vince, uscito l'anno scorso e ispirato alla vera storia della squadra di calcio maschile più scarsa del mondo, quella delle Samoa americane. L'occasione è nata grazie al programma statunitense Sports Visitor, che ogni anno ospita a Los Angeles decine di ragazzi e ragazze da tutto il mondo per un soggiorno estivo. Una di loro è Alessia Pittone, pallavolista e studentessa del liceo Galileo Galilei di Trieste, che ci ha raccontato com'è difficile in Italia conciliare lo sport ad alti livelli con il liceo. Promotrice in Italia di questo programma è la diplomatica Rachel Cook, consigliera per gli affari pubblici dell'ambasciata americana, che ha detto: siamo tutti qui per celebrare la diversità nello sport e in particolare vogliamo incoraggiare le ragazze a impegnarsi nello sport e ricordiamoci che in tanti paesi questo non è ancora socialmente accettato. Le scuole italiane incoraggiano gli studenti atleti. Per la professoressa Elena Spinelli, insegnante di educazione fisica all'Istituto Volta, nonché mentor coach di Trieste, la scuola deve ancora imparare che è un valore aggiunto avere un atleta studente. Bisogna continuare a supportare tutti i nostri allievi, ha detto. Chi volesse approfondire le opportunità offerte da questo programma Sports Visitor può rivolgersi all'American Corner di Trieste. Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi 10 ottobre ricorre la giornata mondiale della salute mentale. Gli operatori del settore chiedono più finanziamenti a sostegno delle situazioni di fragilità. La nostra regione è messa meglio ma da questo punto di vista rispetto alla media italiana, ma siamo comunque tra i paesi che spendono di meno in Europa per la salute mentale. Lorenzo, è tempo di dare priorità alla salute mentale nei luoghi di lavoro. È l'appello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra oggi. La direttrice facente funzione del Dipartimento di Salute Mentale di Asugi, Alessandra Oretti. C'è una stretta correlazione tra lavoro e salute mentale. Vi sono condizioni non favorevoli sui luoghi di lavoro che possono determinare disagio fino anche a disturbo psichico. Pensiamo ad esempio a persone che subiscono negli ambienti di lavoro discriminazioni oppure sono sottoposti per esempio a stress lavorativo legato a turni di lavoro pesanti. Pensiamo a persone esposte a aggressioni verbali e fisiche nei luoghi di lavoro. Ecco, tutto questo ha un impatto molto significativo sulla salute individuale, provocando delle conseguenze anche di natura di disturbo, per esempio depressione, ansia. Oltre a un impatto individuale, questo ha un impatto importantissimo anche sulla collettività, perché si ripercuote per esempio in giornate di lavoro perse, in malattie. Per queste ragioni vengono perse fino a 12 miliardi di giornate lavorative globalmente. Per la prevenzione e il sostegno alle situazioni di fragilità mentale occorrono più investimenti in termini di risorse economiche e di personale. Noi siamo al 3% del Fondo Sanitario Nazionale dedicato alla salute mentale, mentre siamo un fanalino di coda dei paesi ad alto reddito in Europa. Quello che nella giornata di oggi viene richiesto è di poter raggiungere in Italia almeno il 5%. Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguono gli eventi collaterali della Barcolana in vista della regata di domenica. Tra gli attori impegnati nella riuscita della manifestazione c'è anche la Guardia Costiera, presente in questi giorni a Trieste anche con la nave Diciotti. Sentiamo a questo proposito il direttore marittimo del Friuli Venezia Giulia, Luciano Del Prete. Dislochiamo circa 12 unità navali della Guardia Costiera, così come unità navali della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco ed anche dei volontari. Quindi da questa capitaneria viene svolta la regia di tutte quelle che sono le operazioni per la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. Circa 20.000 persone in mare danno per noi grosse preoccupazioni, ma soprattutto per i diportisti e coloro che partecipano alla grossa regata, che non hanno grossa esperienza. Insomma, dei professionisti ci preoccupiamo poco, la nostra attenzione è rivolta soprattutto a chi va per mare per divertirsi. Domenica quanti sarete? Quanti a terra, quanti in mare? Avete rinforzi anche? Sì, diciamo che ci facciamo aiutare un po' da tutti i colleghi che operano nel Friuli Venezia Giulia. Saremo almeno 200 persone divise tra il mare e le attività che si svolgono in sala operativa presso la Capitaneria. Con l'occasione il Comando Generale ha dislocato la nave ammiraglia della Guardia Costiera, quindi la regia in mare sarà da nave Diciotti che coordinerà tutte le operazioni in mare. Poi però c'è anche qualcuno che la Barcolana la fa. Sì, la farà quest'anno anche la unità vela della Guardia Costiera, è la prima Barcolana che partecipa, avrà il guidone, il numero di mascone 160, perché quest'anno è il 160° anniversario di costituzione della Guardia Costiera. Avete una barca speciale per l'occasione? È una barca che proviene da una confisca, frutto di reati di immigrazione, e fu assegnata un anno scorso o due anni fa, e fu assegnata alla Capitaneria per l'assolvimento di compiti istituzionali. E l'addestramento marinaresco degli allievi e del personale della Capitaneria è cosa fondamentale per noi. Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Andrei Marussic, in regia per la parte tecnica Marco Ferrito e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.